Forza, vai, chi? Dai, Giovanni, dai, che ti... Alessio, Giovanni, con le colline del Piemonte ci sta. Qui erano le canzoni partigiane del Piemonte, quelle che cantavamo su nelle Langhe. Voi la cantavate? Sì, sì, sì, questa era la canzone Langhe, proprio nelle Langhe. Sì, sì. Beh, che tu, ecco, no. E voi da dove venite? Noi veniamo da Torino. Da Torino, però, sì. Però la, avete delle formazioni, la sì, formazioni autonome Mauri e Monferrato. Che sei la più forte, fatti avanti se hai te. Questa continua, mi sembra. Sì, questa continua, ma è lunga, lunga, lunga. Sì, ma c'è un po'. Quella. No. Sentiamo, sentiamo. No, perché? Io non ho pagogliato. Cominci pure, cominci pure. Vergogno un po', vermi. Vai, vai a vergognare. Forza. La resistenza per cosa l'avete fatta, in fin dei conti, no? Per poter esatto. Anche allora, sul cappello che noi portiamo. No, no, vuol fare... Vuol fare no, niente mutilati, tutti sani per fortuna. Al comando degli ufficiali cariteremo fucile mitraglia, ma se per caso il colpo si sbaglia la voglia a mano l'assalto si va, e se per caso ancora una che è quella che cantiamo sempre. Senta un attimo, io volevo sentire quella strofa che fa il signore lì, com'è? Oh, Badoglio! Li bruceremo, i tedeschi li piccheremo, i nostri morti son vendicati con il sangue dei traditori. San Marcos veramente Italia. E a colpi disperati invece massacrati dalla baionetta, i fascisti cadevano, e a colpi disperati, e lei tutto l'anno e chi canta? Potevi avanzare, ma dice che si deve riservare per dopo. Cantiamo Bella Ciao. Bella ciao. Sono svegliato stamattina. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi sono svegliato questa mattina ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire la sua montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mi seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E questo il fiore che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutti quelli che passeranno e diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Io non lo vado super. Che ore sono? Scusami. Via Benedetto Marcello, comunque sono lei, 8:30. Via Benedetto Marcello. Sono le 8:30. Sì. Sono le 8:30. Allora lei diceva, che le parole di Fischi al vento sono originali russe, ecco, dalla canzone Katiusha. Come la cantavate voi, aveva delle parole diverse da come si canta adesso. Riflettiva, sì, effettivamente. Erano, diceva, riflettiva. Fischi al vento o la bufera. In furia la bufera. Partigiano, scarpe rotte pur bisogna andare. Aspettando la nostra primavera, dove spunta la rossa primavera, dove spunta il sol dall'avvenire. Questa è l'originale, che è la canzone del Diario Comunista. Come andava avanti lei? Se la ricordo, come andava avanti. Poi aveva l'altra strofa solo, parte dei ribelli, sì. Dai, ogni donna ha lui dona un sospiro. Perché non provate a cantarla? Ogni donna ha lui dona un sospiro. Nella notte ci guidano le stelle, scarpe rotte pur bisogna andare. Questa è la fine. Spende il sol dell'avvenire. Per me era il sol dell'avvenire. Non era come l'hanno deviato oggi. Questa è russa questa canzone. Sì, è l'interpretazione della canzone vera che prende i comunisti. Voi cantavate così? Noi cantavamo questo. In che zona eravate voi? Zona sud dal Tortonese e sud dalla Quese. E voi siete di Alessandria? Alessandria, sì. Sud dal Tortonese e dalla Quese. Ma che canzoni cantavate in genere? Non c'erano le canzoni, cantavano le canzoni del Monferrato. Lassù sulle montagne del Piemonte, ad esempio, questa è la... Ma te la sai giusta la nostra... e la canzone Urla al vento. Se poi volete la cantiamo tutte, io non so. Fischi al vento. Ma né quella che è da destra, quella cantiamo noi. La rossa primavera, la sai. Ecco, lui forse la sa cantare bene, io non so cantare. Ma non ha capito nel cantare bene. Allora siete già in due che sai. Cantate insieme. Quando c'è la... sulle montagne di tornerò, la mamma la bella bacerò, è la Isa, le montagne del Piemonte, Isa la varia anche Isa, ma Isa che sta cantando con le di vincerò laggiù tornerò, giù a Spezia, le parti della zona di Spezia, nella stessa zona tutta. E lei ricorda qualcosa che cantava da quelle parti? Noi ne cantavamo diverse, noi per esempio si cantava la Guardia Rossa, cantavamo i Ribelli della Montagna, sì. Poi altre, adesso si comincia a cantarle vengono in mente. Vabbè, sì. Se mai cantate, adesso noi scappiamo là perché sento che cominciano a cantare. E si comincia a cantarle, più. Vengono in mente. Sì, sì, sì, sì, sì. È che però... Ci spostiamo. Sì. Ci sono diversità anche dai. Dalle formazioni. Quelle. Sì, sì, sì, capito. Grazie. Lasciamo già. Certo. Avvoltano un po' di filo. È il corteo dell'Emilia Romagna. Senti, non me lo puoi mettere sul microfono? In modo che io lo stacco, lo posso staccare? Nostri monti, sempre avanti e sempre pronti, noi partigiani saremo i primi a trova di malo di volar di malo. Prendilo un attimo. Parla, mettilo sull'uomo. No, no. Così è normale, è normale. Così va bene. Assolutamente normale. Così senti? Provo a tirarlo giù. Vediamo, sì. Registra, anche così. Come no, va bene. No, no, registra anche così. Tutti due in modo. Era sull'uomo prima. Sì, sì. Canta un bel accento. Da dietro. Reggio Emilia. Guarda sempre che sta. Cesco, dov'è Cesco? Ravenna. Che piove. distaccare ogni volta più, ma consuma, però forse la batteria è la più di qui, il motore rimane più. Sembra. Ferma, la Prolur che canta. Allora siete di Boves voi, sì. Sì. E voi non cantate voi? Mi sono entrato, non sono in quella per cantare oggi, c'è questo qui. Il coso! Ecco, allora se lui canta, facciamo. Lui voglio registrare una canzone di Boves, chi che canta. No, no, siamo... Vedo Boves. Rita! Ah, sono loro. A me dispiace. Allora, non c'è nessuno che canta? Rita, cosa c'è? Cosa c'è? La canzone di Boves. Ah, c'è proprio la canzone? Sì, allora la sentiamo. Sì, sì, stia pure lì, stia pure lì. Oh no, bisogna sentire Boves. Sì, fatelo insieme. Un po' più in su. Siete 31 dicembre, adesso lì ma che vuol farlo di nuovo? Vuol farlo di nuovo? Sì, aspetta, ma adesso mi sembra di un attimo, Deve spira la lanza, per le feste suma sempre stai ti primi, primi, primi. L'allegria e niente sposa, per trovare suma mai dare agni, agni, agni. L'ambrisa se la rubinasse, ma il fa niente luma già ricostruì. Ogni tanto sparo luma e cantuma la canzone dello spais. Ogni tanto sparo luma e cantuma la canzone dello spais. Ecco, io non ho capito bene le parole, me le dice in piemontese, ma parlando. Così allora. Ogni tanto si è... No, come comincia? Noi di Boves. Noi di Boves. Noi a Boves, pura razza. No, la dica no, noi di Boves, pura razza. Per le feste siamo sempre stati i primi. No, noi abbiamo detto in italiano. In piemontese? In italiano. Nati Boves. Noi di Boves, pura razza. Per le feste siamo sempre stati i primi. Per le feste siamo sempre stati i primi. Per l'allegria non c'è nessun che ci passa. Per il lavoro, per il lavoro, per il lavoro, per il lavoro, per a nessuno, a nessuno, a nessuno, che c'è qualche altro? 31 dicembre. Momento, ecco, questo non lo so, povere mamme, sentiamo. Allora canto gratuita. Ci ricordi il 31 dicembre quella colonna di camion per Boves che trasportava migliaia di tedeschi contro di noi partigiani che trasportavano migliaia di tedeschi contro sapete ancora. Grazie, grazie. Ferma, ferma che...